piglia impazzite, non ridono. Vanessa, i tuoi seni mi scioccano, la tua pelle liscia rosa, lo sguardo un po' distratto da che. Spari in vetrina collidono, Vanessa, i tuoi sguardi mi inchiodano, la tua pelle liscia rosa, come vento in faccia soffia, lo sguardo un po' distratto da chi, da chi. Frecce impazzite non ridono, Vanessa, i tuoi sogni mi invadono, la tua pelle liscia e rosa, di colpo mi sveglio dal film, all'alba mi sveglio dal film. Finish!